I lavori di domani, di Anna Marino. Nuova figura professionale in grado di riconoscere e utilizzare al meglio le potenzialità messe a disposizione dal mondo digitale per accrescere o sviluppare il business delle PMI. In particolare, mira a sfruttare al massimo la creazione e la divulgazione di informazioni di valore attraverso i meccanismi dell'online marketing che possono essere importanti per aumentare il valore reale percepito di una persona o azienda e aumentare anche di conseguenza i profitti. Chi è? Si tratta della professione di marketer e infoimprenditore per PMI digitali sostenibili e noi come sempre, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24 alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro marketer e infoimprenditore per PMI digitali sostenibili segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni, la formazione e perché no dritte sulle opportunità per questa figura grazie a Mick Cosentino, marketer e infoimprenditore per PMI digitali sostenibili. In che cosa consiste il tuo lavoro? Io sono un infoimprenditore e questa è una definizione un po' funny, un po' pop, no? E di fatto l'infoimprenditore dal mio punto di vista è un imprenditore che utilizza le informazioni per in qualche modo educare e o veicolare un messaggio che può essere ovviamente un valore aggiunto per chi lo riceve. Quindi quello di cui mi occupo sostanzialmente è creare tutto un volano di informazioni che possono essere e utili a piccoli professionisti, piccole e medie imprese o anche semplice magari dipendente che vuole avere determinate informazioni per magari posizionarsi online oppure per trovare un proprio posto nel mondo digitale, nel mondo di internet. Quindi di fatto sono leggermente a latere rispetto all'imprenditore tradizionale che ovviamente fa impresa magari da tanti anni. Io sono sicuramente molto più giovane, ma l'infoimprenditore per me è proprio colui che delle informazioni ci ha fatto il proprio business. Il marketer, che è una delle professioni di cui abbiamo già parlato, è alla base di questo lavoro. L'imprenditore digitale italiano è un'altra definizione che però ha dentro esperienze e aiuti, deve essere un volano anche in questo momento di emergenza sanitaria per altri imprenditori micro oppure anche piccolissimi startup che vogliono entrare nel mondo digitale. Questa è la porta per il futuro e non è più un nice to have, è una svolta che bisogna fare. Ecco, per quanto riguarda però appunto la spinta, la tua formazione ha avuto una spinta dall'inizio, hai iniziato addirittura dal nuoto e poi sei arrivato, come dire, a una grande formazione nel settore. Qual è appunto il tuo percorso e dove ti sei formato? Io mi sono formato sempre negli Stati Uniti, quindi diciamo che praticamente il 99% della mia formazione è negli Stati Uniti e viene tuttora negli Stati Uniti. Molti dei miei colleghi, molti dei miei mentori attuali sono ancora negli Stati Uniti, quindi io ho sempre studiato, diciamo, a distanza, a parte quando poi ho smesso di nuotare e avevo anche la possibilità economica di farlo, ho iniziato proprio a viaggiare tantissimo, tant'è che oggi poi vivo anche all'estero, vivo a Dubai e anche là ho determinati advisor che comunque mi aiutano da un punto di vista di business. Come nuotatore mi sono tolto sicuramente tante soddisfazioni, ma il nuotatore purtroppo non è come il calciatore. Ecco, Mick Cosentino è un nome, diciamo, che richiama italo-americanità e anche tanti premi, diversi titoli italiani e convocazioni nazionali. Ecco, hai avuto anche dei premi, quindi dei riconoscimenti. Parti da uno sport? Sì, parto dallo sport, sì, assolutamente. Cioè, comunque mi sono qualificato per europei, per mondiali. L'unica cosa che non ho fatto e mi rimarrà sempre qua per tutto il resto della mia vita sono le Olimpiadi, a causa poi di un infortunio che ho avuto che mi ha bloccato per quasi un anno e mezzo. Ed è da lì poi che mi sono reinventato, nonostante stessi continuando a nuotare, ma mi sono dovuto reinventare perché purtroppo, come dicevo, il nuotatore vive in maniera un po' precaria, nel senso quando vai bene va tutto bene, quando vai male non vali più per il mercato. Quindi mi sono ritrovato di punto in bianco a dovermi reinventare e praticamente ho trovato poi nel web, iniziando a leggere, iniziando a cercare un po' in giro, le informazioni che mi servivano. Quindi ho iniziato a vedere ragazzi molto giovani che in qualche modo guadagnavano grazie all'online o guadagnavano grazie a determinate competenze che io non avevo mai sentito in vita mia. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority? Noi all'interno ad esempio di Infomarketing X abbiamo ormai più di 2000 clienti e all'interno di questi 2000 clienti ci sono varie figure, no? C'è il giovane che ha appena finito l'università e non trova un posto di lavoro e magari si mette online a fare il copywriter oppure si mette online a fare il social media marketer per magari aziende che hanno bisogno di gestire la componente social, e magari iniziano a guadagnare quei 2.000, 3.000, 4.000, anche 5.000 euro al mese, che sono cifre che ovviamente fanno rabbrividire tante volte, dire ma non è possibile che guadagnino così tanto, però in realtà sono figure che sono tanto richieste. Quindi quando tu hai una figura che è tanto richiesta è perché può risolvere un problema molto grosso all'interno di una realtà, e quando tu sei in grado di risolvere un problema molto grosso sei pagato per il valore che ovviamente porti sul mercato. Questo tipo di lavoro, questo tipo di professione è utile e sostenibile per i giovani, è sostenibile per le imprese, sì. È utile in questo momento di crisi sanitaria per i settori e imprenditori come anche i ristoratori, che hanno delle conseguenze, dei colpi di coda. È importante allora prendere appunti, li troverete anche sul sito dell'introduzione al podcast. Riassumiamo, prendete carta e penna o i vostri device, lo dico a chi ci ascolta, e via con gli appunti e quali indicazioni, app e siti per formarsi e informarsi e per la ricerca di lavoro oltre al vostro sito. Per la ricerca di lavoro sono uno dei siti che io a me piace tanto e permette veramente a tante persone che hanno magari delle determinate competenze, non necessariamente nel mondo digital, nel mondo marketing, ma magari faccio un esempio, sanno leggere bene i numeri, sanno leggere bene dei file Excel, sanno oppure creare magari dei protocolli, o sanno montare dei video, sanno fare tutta questa serie di cose. C'è un sito molto molto bello che tra l'altro è un'azienda strutturata, credo valga 5 billion, si chiama fiverr.com, ed è un sito dove ci sono tanti freelancer che si possono mettere lì online e proporre il proprio lavoro, e dall'altra parte ci sono imprenditori che magari non hanno la possibilità oggi di studiare perché sono già immersi in tante cose da fare, e trovano queste persone che hanno le competenze che a loro servono e si mettono in comunicazione per svolgere lavori. Quindi oggi, secondo me questa è una chiave molto importante per l'impresa, bisogna circondarsi di persone che lavorino soprattutto a progetto, perché questo permette di avere molta più elasticità anche nell'ampliamento o meno magari dell'azienda stessa. Cioè la sostenibilità è proprio questa.